Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ci occuperemo di Grecia, alle volte ritornano, anche perché la Grecia è l'elemento più o meno pretestuoso su cui oggi si vende in borsa. Meno 1,40% Milano, meno 1,1 Parigi, meno 1,15 Francoforte, e invariata invece Londra, con per quello che riguarda gli Stati Uniti un dato sul Dow Jones anch'esso invariato, e quindi i cali si concentrano nell'area euro. L'euro nel frattempo è a quota 1,06, quasi 1,07 nei confronti del dollaro. Dicevo, parleremo di Grecia perché i rinnovati timori per uno possibile fallimento della trattativa in corso con la Grecia. Atene è arrivata a perdere anche più del 2%. Fanno calare soprattutto oggi le banche, ma ripeto, in alcuni casi ci sono anche dei temi specifici, in altri sono così elementi pretestuosi. Nel caso specifico Monte dei Paschi, ma non solo, è Unicredit, perde il 2,90% dopo che si è saputo che Del Vecchio ha alleggerito la sua quota nel capitale, scendendo dal 3% al 2%. Invece, dicevo, Monte dei Paschi oggi l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti in prima convocazione non ha raggiunto il quorum costitutivo, è stata quindi riconvocata per domani, quindi 15 aprile, e tra l'altro il giudice del lavoro del Tribunale di Siena ha accolto il ricorso di circa 250 ex dipendenti della banca trasferiti lo scorso anno ad un'altra società, ha stabilito anche la nullità del trasferimento. Non è questo chiaramente l'elemento determinante sul Monte dei Paschi, però faccio notare che Monte dei Paschi è l'unica banca che in questo momento, titolo bancario, che in questo momento cresce dell'1,1%. Tra chi cede di non bancario segnalo anche Ferragamo meno 3,90, Mediaset meno 3% e ST Microelectronics meno 2,40. Tra le banche invece, oltre a Unicredit, calo significativo anche per Intesa San Paolo, il 2,90%, per la Popolare Emilia Romagna il 2,70, per il Banco Popolare il 2,1%. Di questo ci occuperemo anche del nostro modello di impresa, prendendo spunto dall'inaugurazione oggi che ha fatto anche il Presidente del Consiglio Renzi del Salone del Mobile di Milano, uno delle 4A, lo ripetiamo spesso, del nostro Made in Italy, l'arredo, il mobilio arredo, il legno arredo, assieme all'automotive e quindi alla meccanica industriale e all'abbigliamento e all'agroalimentare. Sarà questa l'occasione per ragionare su un indice, oggi lo trovate ampiamente analizzato anche su Sole 24 Ore, diffuso dal gruppo Accenture, ha messo assieme 17 paesi. L'Italia è un indice di digitalizzazione, ma non riguarda solo l'elemento così di information technology. L'Italia purtroppo è in penultima posizione, dietro di noi solo l'India, ma soprattutto sarà anche l'occasione per ragionare su come sta cambiando e se stanno cambiando i modelli di impresa, al di là delle difficoltà che ci sono nel fare impresa in questo paese e che spesso ricordiamo: burocrazia, incertezza della giustizia di carattere civile in primo luogo, peso della tassazione, inefficienza del sistema paese, pensiamo appunto anche all'infrastrutturazione di carattere digitale del paese, per non parlare dell'infrastrutturazione nei trasporti. E oggi ancora notizie sul fronte di quello che è successo in Sicilia, ne parleremo anche di questo. Per quello che riguarda invece gli altri temi, oltre a quelli toccati, c'è anche un tema che riguarda l'industria elettronica a livello mondiale. La finlandese Nokia e la franco-americana Alcatel-Lucent Technologies hanno confermato di essere in trattativa per un'aggregazione. Lo scenario più probabile sembra quello di un'acquisizione di Alcatel-Lucent da parte della finlandese Nokia, attraverso un'OPA. L'operazione potrebbe valutare Alcatel-Lucent oltre 13 miliardi di dollari, inizio anno ne valeva 8,3, oggi circa 12. Nokia perde non tantissimo, guadagna in borsa Alcatel-Lucent, ma è chiaro che la cosa più importante è capire che gruppo potrebbe nascere da trattative a questo punto confermate in corso. Il governo di Parigi ha già fatto sapere che sarà molto vigile sulla protezione dei posti di lavoro e degli stabilimenti industriali in Francia. Nascerà comunque un colosso se le trattative andranno avanti, mondiale nel campo delle telecomunicazioni. Anche di questo ci occuperemo. 349-238-6666 per i vostri SMS. La pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 per intervenire anche attraverso Facebook e Twitter nel programma. Rapidamente le altre notizie in breve. Restiamo sull'economia internazionale, non si ferma la caduta della lira turca sul dollaro. Adesso non voglio riaprire il ragionamento fatto in chi evoca o evoca, per meglio dire, la lira italiana come soluzione a tutti i mali strutturali e endemici di questo paese. Faccio notare che nel momento in cui si svaluta la lira turca capita esattamente quello che capita ogni volta che si svaluta una valuta. Allora, il motivo in Turchia è l'incertezza sulle elezioni politiche del prossimo 7 giugno. È a 2,674 sul dollaro. I tassi di interesse turchi sono, per esempio, per il BTP a 10 anni turchi all'8,4%. Il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime sulla crescita americana, ha più o meno confermato quelle sulla crescita europea. Nel 2015 resterà all'1,5%, anzi sono leggermente migliori sia sul 2015 che sul 2016, dove dovremo crescere come area euro dell'1,6%. L'America invece quest'anno, gli Stati Uniti, 3,1% quest'anno e 3,1% anche l'anno prossimo come crescita economica. Lo 0,5% in meno rispetto a quanto precedentemente stimato. Rallenta anche la crescita in Cina, ma più sostenibile nel 2015. Il dato è inferiore a quanto previsto da Pechino ed è leggermente sotto il 7%. Il 7% in Cina è lo spartiacque tra creazione di posti di lavoro e non creazione di posti di lavoro. Comunque al 6,8% secondo la stima del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, ha alzato le stime sull'Italia, quest'anno più 0,5, più 1,1 nel 2016. Il governo, se non ricordo male, ha messo 0,7% di stima quest'anno sulla crescita economica, quindi già c'è una stima più ottimistica rispetto a quella del Fondo Monetario Internazionale. Più 1,1 l'anno prossimo, la ripresa comunque resta fragile nell'area euro, c'è il rischio stagnazione. Le probabilità però di una deflazione vera e propria, cioè di prezzi in calo, sono scese sotto il 30%, dice il Fondo Monetario. Comunque l'inflazione resta sotto gli obiettivi che ha la Banca Centrale Europea, perché la BCE vuole un'inflazione come obiettivo intorno al 2%, né troppo sopra né troppo sotto il 2%, però le iniziative di Mario Draghi hanno fermato il calo delle aspettative di un'inflazione ancor più in calo, di una deflazione alle porte. E poi arriveremo anche a Blanchard, il capo economista del Fondo Monetario, sulla Grecia. Ha detto che l'uscita della Grecia dall'euro sarebbe molto costosa per la Grecia. Andiamo alle notizie italiane, poi parleremo anche di Renzi che oggi, come ricordavo nel suo intervento al Salone del Mobile di Milano, a Ro, dove si terrà l'Expo, ha detto che l'Italia è in condizione di essere uno dei paesi che cresce più degli altri, e poi ha detto il Salone del Mobile non è una roba da fighetti, testualmente, stiamo invece parlando del simbolo dell'Italia, di un pezzo dell'economia con dati straordinari. Poi ha anche aggiunto che il governo è pronto a confermare e ad estendere se servono gli interventi a favore del settore, quindi il bonus, il cosiddetto bonus mobili. Per quello che riguarda sempre l'Italia, oggi scopriamo, tra virgolette, dal rapporto dell'OCSE, il Tax in Wages, che il peso della tassazione su una famiglia monoreddito con due figli in questo paese è aumentato di 0,5 punti percentuali nel 2014 in rispetto al 2013 ed è il quarto peso fiscale più elevato di tutti i paesi OCSE. Per i single, il cosiddetto cuneo fiscale, cioè la differenza tra quanto costi all'impresa e quanto percepisci in busta paga, è aumentato dello 0,4% al 48,2%. Siamo al sesto posto per pressione fiscale tra i paesi dell'OCSE e quindi questi aumenti del cuneo fiscale vanno presi senza polemiche. Il governo dice che nella legge finanziaria ha ridotto la pressione fiscale, gli 80 euro, la decontribuzione per i neoassunti, alcuni incentivi, alcune stanziamenti anche sull'IRAP, ed è vero. C'è però poi il tema della tassazione di carattere locale, come abbiamo spiegato molte volte, quindi addizionali IRPEF regionali e comunali. C'è il tema della tassazione sulla casa, che è di fatto una piccola patrimoniale e che è aumentata da quando c'era la vecchia ICI alla TASI IMU, per cui il dato complessivo vede un aumento del cuneo fiscale nel 2014. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. L'autore oggi è il vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Fisco e contributi prosciugano sempre più le buste paga degli italiani. L'OCSE ha aggiornato al 2014 il suo voluminoso rapporto annuale sulla tassazione degli stipendi e si scopre che la differenza tra il costo totale del lavoro, quindi includendo sia la parte a carico del lavoratore sia quella a carico dell'azienda, il salario netto in busta paga è cresciuta rispetto al 2013 e nel caso di un lavoratore single arriva a sfiorare il 50%. L'Italia si conferma così ai primissimi posti per il prelievo complessivo di tasse e contributi sui salari, preceduta solo da 5 paesi, tra cui Belgio, Germania e Francia, ma solo da 3 paesi se il calcolo viene riferito a una famiglia monoreddito con due figli a carico. Secondo l'OCSE sono state soprattutto le addizionali locali ad appesantire il peso della tassazione sui salari in Italia, mentre nei calcoli non si tiene conto del bonus degli 80 euro introdotto nel 2014, perché i salari che vengono monitorati dall'OCSE sono generalmente superiori a quelli per i quali il bonus di 80 euro è riconosciuto. L'elemento che però fa più riflettere è che in Italia dall'inizio della crisi nel 2008 fino all'anno scorso, il 2014, la tassazione complessiva sui salari non ha fatto che aumentare e la differenza tra il costo totale del lavoro e il salario netto in busta paga è passata dal 46,6% all'attuale 48,2%, un elemento che certamente rappresenta un freno per la ripresa dei consumi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Arriviamo alla Grecia, prima però, non per affinità concettuale, ma insomma, restiamo ancora un secondo sull'Italia e su quello che è successo all'autostrada 19 Palermo-Catania. Io non sto festeggiando le dimissioni di Ciucci, abbiamo avuto una polemica fortissima, l'abbiamo avuto ospite, abbiamo raccontato la buonuscita che si diede senza preavviso quando si autolicenziò da direttore, lui ha smentito che fosse senza preavviso ma non la montata della buonuscita. Cioè il tema resta, abbiate pazienza. Non solo su Ciucci, perché non mi piace fare il debole con i forti e il forte con i deboli. Noi Ciucci l'abbiamo attaccato quando la stampa italiana ignorava bellamente il problema, anche perché era l'uomo del ponte sullo stretto a suo tempo, quindi fu anche nel progetto, se non ricordo male, di Berlusconi, il ponte sullo stretto, fu l'uomo invece, non dico incensato, però ci andiamo vicini. Allora, adesso il problema non è Ciucci, è che bisogna capire una volta per tutte che i ruoli apicali, e quindi non solo l'amministratore delegato e il presidente, di chi ha a che fare con gli appalti pubblici in questo paese, mi dispiace dirlo, vanno fatti girare. Uno dice rinunciamo anche a qualche brava professionalità per farli girare, turnare in maniera obbligatoria, ho capito, ma in questo paese ogni volta che scopriamo delle tangenti o del malaffare, o in questo caso con l'ANAS no, ma di mezzo ci sono i lavori pubblici. Sulla vicenda dell'autostrada A19 Palermo-Catania, dove hanno ucciso due piloni di colpa di una frana, povera. Cioè, io quando leggo anche i miei colleghi che dicono colpa di una frana, ragazzi, colpa di chi ha costruito quell'autostrada, la frana. C'era era da 10 anni che si muoveva. Cosa deve fare la frana? Se si chiama frana, farà la frana. Se no non si chiamava frana e va in crisi di identità anche la frana. Ma no, come piove, asfalto killer, no. Motociclista, automobilista, idiota se tu corri con l'acqua, non asfalto killer. Allora, in questo caso c'era una frana che si era staccata e scendeva, non gliene è fregato niente a nessuno e i due piloni hanno ceduto. Perfetto, colpa di chi non ha vigilato, non colpa della frana, che fa se stessa, fa la frana. E il neo ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio dice che ci vorranno 18-24 mesi per ricostruire le due carreggiate, i 300 metri di ponte e i 5 piloni, prudenzialmente occorreranno dai 18 ai 24 mesi e sui costi l'ANAS dice intorno ai 30 milioni. Ora sentiamo l'analisi del presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta, oggi intervenuto a Effetto Giorno con il nostro Simone Spezia. Per effetto delle alluvioni di gennaio e febbraio, anche grazie alla segnalazione che ci aveva fatto il sindaco della zona, sì, noi abbiamo ho fatto fare il monitoraggio di tutti i dati creati in Sicilia e abbiamo inserito il 12 marzo, quindi non è vero che non è stato segnalato la necessità di intervento diretto. Noi abbiamo chiesto la dichiarazione dello stato di calamità naturale il 12 marzo per poter intervenire. Dichiarazione di stato naturale di calamità che non è ancora stata fatta. È vero anche dall'altra parte, come si diceva, che questa frana è in movimento da 10 anni e si conosce da 10 anni, come abbiamo raccontato. E guardi, nei 2 anni in cui io sono stato presidente, la mia domanda è proprio su questo. Nessuno gliel'ha mai segnalato questo rischio. Nessuno gliel'ha mai segnalato. Inserito nelle mappe di rischio, l'ho fatta inserire io. Quindi c'è stata una sottovalutazione da parte degli uffici competenti? Sicuramente, ripeto, ma la sottovalutazione è stata fatta, ripeto, con una logica in cui per tutti gli interventi si è data la priorità ai centri abitati. Nessuno, probabilmente, io non so perché dovrei guardare le carte, è chiaro che sarà stato segnalato ai precedenti governi, per carità. In un paese normale, e lo dico mentre ringrazio per averci raggiunto in collegamento da Londra Ferdinando Giuliano, che è un italiano, italianissimo, ma è editorialista del Financial Times. Buonasera Ferdinando. Buonasera. Ti sento depresso da quello che stiamo raccontando, adesso arriviamo anche, arriviamo anche alla Grecia. No, ma dico, in un paese normale... Crocetta, per carità, dice nessuno me l'ha segnalato. Bene, il dirigente capo dell'ANAS Sicilia viene licenziato, mi dispiace dirlo, ma non è possibile avere due crolli in quanto siamo in 2 mesi su una frana di cui, ripeto, che non è spuntata, non è arrivata da Marte, non è l'invasione degli ultracorpi, ok? E allo stesso modo possiamo vedere anche le singole responsabilità dell'assessore, perché l'assessore non si è informato, gli era stato avvisato l'assessore di Crocetta, c'è da cambiare l'assessore, e poi a salire si va a vedere anche la responsabilità dei capi dipartimento dentro l'ANAS e quant'altro, anche perché abbiamo segnalato che spesso è gente da 6-8 anni che è lì. E poi si arriva anche a chiedere il licenziamento, le dimissioni volontarie del numero uno. Questo in un paese normale, perché i viadotti non possono crollare in questo modo, a meno che non ci sia un terremoto, in una frana che sta procedendo lentamente, ci ha messo pure del tempo, no? Era una frana italiana. Allora, detto ciò, e poi arrivo a lei, arrivo a te Ferdinando, sentite la risposta, l'hanno già trasmessa i nostri GR, ma secondo me è bellissima, viene da piangere in realtà, dell'ex sindaco di Ostuni, Domenico Tanzarella. Qui il caso è il crollo del tetto della scuola Ostuni, 4 anni di lavori, raddoppio dei costi, la ditta ieri da noi contattata dice noi non ci siamo occupati del soffitto, vabbè, cosa avete ristrutturato non lo so, i lavori sono iniziati quando era sindaco Domenico Tanzarella, ferimento di due bambini e di una maestra. Oggi la procura di Brindisi ha depositato un'informativa sulle imprese che hanno seguito i lavori, sentite la spiegazione o giustificazione dell'ex sindaco Domenico Tanzarella a Effetto Giorno. I lavori del primo appalto sono terminati nel 2012. Successivamente sono stati fatti lavori in parti che non erano prima previste, tipo per esempio il rifacimento completo della palestra, le pavimentazioni, gli intonaci, gli infissi. Quindi c'è stato lì un errore da parte della ditta e del direttore dei lavori. Poi faccio ascoltare anche un altro pezzetto in cui dice no, ma l'assessore, l'assessore ai lavori del comune che cosa sa, mica può valutare i lavori, cioè qui è uno scarica barile continuo. Detto ciò, per respirare andiamo verso la Grecia, anche perché una volta si diceva che la Cina è vicina, qui è la Grecia che è vicina quando leggi certe cose. Allora Ferdinando Giuliano, il Financial Times, di cui sei tu uno dei più importanti editorialisti, scrive che Atene si starebbe preparando al fallimento se non arriva l'accordo. La notizia ha avuto un'immediata, come raccontavo, ripercussione sui mercati finanziari. Si sono impennati i rendimenti greci, la borsa greca è calata, anche le borse dell'area euro e i titoli bancari. Il governo di Atene vi ha, tra virgolette, smentito. Qual è lo scenario che voi avete illustrato, Ferdinando? Il nostro sì, è un articolo appunto di colleghi Karen Hope e Tony Barber che praticamente segnalavano come appunto in assenza di aiuti il governo greco sta arrivando un po' alla fine dei soldi che può usare per pagare sia i creditori internazionali che poi appunto stipendi, le pensioni, così. Si tratta di appunto in qualche maniera un momento che molti aspettavano. Come sappiamo bene, da quando c'è stato appunto lo scontro con i creditori internazionali tra il governo di Siriza, appunto a parte il governo di Siriza, i greci sono trovati costretti in qualche maniera a dover gestire le finanze pubbliche di mese in mese, di volta in volta, cercando un pochettino di prendere quanti più, appunto cercare soldi anche in diversi aree in diversi aree appunto della macchina statale, in quelli che sono appunto hanno avuto delle difficoltà per mantenere i pagamenti. Certo. Questo anche perché poi le entrate fiscali sono diventate sempre più deboli, si dice soprattutto a gennaio che appunto molti contribuenti hanno smesso in qualche maniera di pagare le tasse, febbraio è andata un po' meglio. Però è in qualche maniera un momento che ci si aspettava. Ecco, ora, su questo la prospettiva della City di Londra, nel senso che noi abbiamo visto venerdì scorso JP Morgan, quindi la banca d'affari americana, ha diffuso un documento ai suoi azionisti in cui spiegava che era necessario tenersi pronti per una possibile uscita della Grecia dall'area euro, e il numero uno, l'intramontabile tra virgolette, Jamie Dimon, ha affermato dobbiamo prepararci a questa eventualità e stiamo effettuando continue simulazioni sulla nostra banca per valutare le eventuali conseguenze. Tra l'altro oggi uno dei membri, Klaas Knot, governatore della Banca d'Olanda e consigliere della Banca Centrale Europea, ha detto attenzione, con il fallimento della Grecia si potrebbe innescare un effetto contagio. La sensazione che voi registrate nella City qual è? Perché tu già dicevi è qualcosa che alcuni già da tempo si aspettano, Ferdinando. Credo che la situazione sia sicuramente deteriorata in questi mesi, questo è inevitabile, anche se ovviamente c'è sempre, bisogna ricordare che anche un eventuale default da parte della Grecia non porterebbe necessariamente a un'uscita dall'euro, quindi terrei le due questioni in qualche maniera. Hai ragione, allora, hai ragione. Il default secondo me è un qualcosa di possibile, perché il governo greco deve pagare dei debiti, il governo greco deve pagare le pensioni, il governo greco deve pagare i suoi dipendenti. Allo stesso tempo non può contare più su quei 7 miliardi di aiuti internazionali che dovevano arrivare, che non sono più arrivati perché c'è stato uno scontro tra Syriza e i creditori, su quali misure appunto il governo greco si sente disposto a implementare, quali riforme strutturali, quali riforme in termini di per riportare giù il deficit, per diciamo tenere sotto controllo i conti pubblici. Nel momento in cui sono mancati quei 7 miliardi, i greci oggi si trovano in difficoltà, non sono in grado di pagare tutto quello che possono, che devono pagare. Se ci fosse un default, si entrerebbe in una situazione, in una terra incognita. Ora, è difficile in qualche maniera immaginare, essere sicuri di quello che succederà. Quello che si può prevedere, per esempio, è una possibilità che ci sia una corsa agli sportelli. Già si è visto che i depositi, sempre più persone che hanno appunto i propri soldi nelle banche greche, hanno deciso di andarli a tirare fuori perché hanno paura che ci possano essere appunto dei controlli di capitale o per caso magari un giorno addirittura appunto dell'uscita della Grecia dall'euro, il che vorrebbe significare la conversione forzosa dei appunto dei depositi bancari in una nuova dracma che vale di meno. Quindi è possibile che un default porti a una corsa agli sportelli. Però sono due cose diverse, hai ragione, anche perché spesso si è ragionato di un quello che si chiama fallimento pilotato, nel senso che tu non vai a dire basta, adesso chiudiamo le banche, non possiamo più dare erogare credito, ma un fallimento pilotato che abbiamo visto in pochi casi nel passato, ed è una cosa, e lì si tratterebbe del fatto che il governo greco non riesce più a ripagare i suoi creditori a partire dal Fondo Monetario Internazionale, ma non solo, e quindi dice io sono in default tecnico, quindi cerchiamo di capire come rinegoziare il debito. Altra cosa sarebbe l'uscita dall'euro, che avrebbe conseguenze ancora più drammatiche per la Grecia e conseguenze anche di rischio effetto domino sul resto d'Europa. Ti chiedo ancora qualche minuto di pazienza, perché vorrei capire però in questa situazione qual è anche la posizione del giornale per cui tu scrivi, nel senso che ci sono delle responsabilità oggettive greche enormi, c'è stato però anche a nostro avviso un avvitarsi dell'intera partita fin dal 2010, l'irrigidirsi della posizione tedesca e della posizione anche del nord Europa. Questo continuo pensare che bisognasse dare una lezione ed essere, dare un monito agli altri paesi a costo poi di infilarsi in un cul-de-sac, e questo continuo spirito tra virgolette punitivo, non perché non andassero sanzionati i greci, ma poi un conto è punire, un conto è umiliare, tu punisci per avere qualcosa di meglio, non per avere uno studente che poi non va più a scuola e abbandona la scuola. Allora, la nostra posizione è che con tutte le responsabilità che hanno avuto i greci, c'è stata anche una buona responsabilità della gestione di questa crisi dal 2010 in poi. Nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Ferdinando Giuliano in collegamento da Londra, dove è editorialista del Financial Times. C'è stato, oltre che le colpe della Grecia, anche qualche errore. Cioè, l'opinione della Citi, che voi ascoltate e che percepite, che registrate, è che la colpa qui sia tutta dei greci, magari di Tsipras, oppure ci siamo incartati come area euro nel trasformare la Grecia come un grande problema anche poi elettorale? Ferdinando. Io dividerei un po' la questione in due fasi. Uno, quello che è successo fino ad ora, fino alla direzione del governo in Siria, e l'altra da quello che è successo ora in questi mesi. Secondo me nei primi anni, da quando si è scoperto appunto che la Grecia aveva un deficit di bilancio molto maggiore rispetto a quello che si pensava, ci sono stati sicuramente errori da tutte e due le parti. Da una parte era sicuramente inevitabile che la Grecia dovesse implementare delle politiche di austerity. Secondo me il pezzo che ci sia un po' perso nella questione è che, a differenza della Spagna o dell'Irlanda, dove si trattava di crisi bancarie, in Grecia si trattava di un paese che aveva veramente un deficit di bilancio troppo grosso. Lì il problema era proprio in come lo Stato aveva gestito le finanze pubbliche, quindi l'austerità era in qualche maniera inevitabile. Però sicuramente ci sono state delle politiche di austerity sicuramente eccessive in termini di e forse un po' troppo restrittive all'inizio, che poi hanno portato in qualche maniera a un avvitamento dell'economia su se stessa. E c'è stata troppo poca attenzione a quelle che sono le riforme strutturali, che in Grecia sono procedute molto più lentamente che in altri paesi come in Spagna e in Portogallo, dove appunto proprio la Spagna e il Portogallo sembrano avere oggi delle conseguenze positive in termini di crescita da quelle che sono state queste riforme. D'altra parte però credo che in questi ultimi mesi ci sia un problema abbastanza grosso nel modo di porsi del governo greco nei confronti dei creditori internazionali. Quello che percepiamo è proprio ormai una rottura della fiducia che c'era con tutti i limiti del caso, perché ovviamente tra il vecchio governo e i creditori internazionali. Qui si tratta di un continuo scontro tra Tsipras, il ministro delle finanze Varoufakis, e i partner europei. E sicuramente è una posizione molto difficile quella che vogliono mantenere i greci, perché da una parte vogliono continuano a chiedere appunto dei soldi per essere in grado di pagare i debiti e pagare gli stipendi, dall'altra però minacciano addirittura il default, vogliono che appunto vengano non avere condizioni, avere molte poche condizioni per questi prestiti. Quindi penso che in questi mesi, anche se sicuramente negli anni passati sono stati fatti errori da tutte e due le parti, oggi la posizione di Syriza è più difficile da accettare, e anche perché rimaniamo convinti, e comunque questa è un'opinione abbastanza diffusa, che i creditori internazionali sono ancora disposti a fare dei compromessi, per esempio sull'avanzo primario che i greci devono sostenere quest'anno. Secondo me la possibilità di raggiungere appunto un compromesso continua ad esistere, semplicemente che alcuni atteggiamenti che sono visti da parte del governo greco di Syriza rendono molto più difficile raggiungere un accordo. Chiarissima la tua analisi, quindi c'è una componente anche politica greca recente, cioè dopo le elezioni di gennaio, che crea una maggiore difficoltà anche nell'arrivare a una trattativa. Lì si vedrà anche la cifra politica di Tsipras e di Varoufakis. Sicuramente hanno già ottenuto l'effetto di concentrare l'attenzione mediatica su se stessi. Dopodiché, dopo essere bravi a creare l'attenzione mediatica, bisogna capire anche se sono bravi anche a fare le trattative e hanno abilità politica in questo, e non solo diciamo nell'essere ritratti per la loro fotogenicità e quant'altro. Grazie a Ferdinando Giuliano, editorialista del Financial Times, in collegamento con noi da Londra. minuti, adesso la borsa e poi la vicenda Nokia, Alcatel, Lucent e il rapporto diciamo sugli investimenti in competizione, quindi in densità digitale, elaborato da Oxford Economics e Accenture. Allora andiamo con ordine, -1,07 alla fine Milano, non chiude sui minimi, così come Parigi chiude con un -0,70, Francoforte -0,90, Londra +0,16, l'America +0,20. Il tema è rischio default, fallimento greco, ne abbiamo parlato fino ad adesso. L'euro è a quota 1,0670. È chiaro che oggi le banche hanno sofferto, tranne il Monte dei Paschi +1,24%. Il resto ha visto Intesa San Paolo perdere il 2,60, Unicredit il 2,5%, Mediobanca il 2%, Pop Emilia Romagna il 2,12, Pop Milano l'1,50, come il Banco Popolare. Ancora per quello che riguarda gli altri titoli, negativa ST Microelectronics -2,20%, TOZ -1,90%, Mediolanum -1,80%, Azimut -1,60%. Oggi il collegamento è con uno degli operatori di borsa, come spesso facciamo, e quindi ringrazio il dottor Salvatore Gazziano, responsabile di strategia di investimento di Soldi Expert. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, la sento un po' intubata, adesso vediamo. Allora Gazziano, è un pretesto per vendere o in realtà il timore è veramente forte? Mi riferisco alla Grecia. Ma diciamo che qualche timore c'è sempre che la tragedia greca possa sfociare in qualcosa di più grave di quello che è stato finora circoscritto. Va anche detto però che il settore più colpito, e se peraltro anche la stessa Piazza Affari, vengono da settimane molto, molto forti. Cioè ieri abbiamo visto il FTSE MIB a 24.000 punti, voglio dire, un po' di scusa c'è nel vendere, dai. Sì, se parliamo del settore bancario, da inizio anno eravamo a ieri più 31%, addirittura sulle banche finanziarie, dicevo, anche di risparmio gestito, il rapporto da inizio anno, il rendimento da inizio anno era più 41%, quindi stupirsi per prese di profitto dell'ordine del 2-3% mi sembra persino ancora prematuro, almeno mi sembra che ci sono ancora le condizioni per gridare al lupo. Ancora, veniamo sui singoli titoli. Monte dei Paschi, devo dire che oggi l'assemblea rinviata domani, ha riaccolto il giudice del lavoro di Siena il ricorso di 250 ex dipendenti. Il titolo però Monte dei Paschi è l'unico che sale oggi, Gazziano. Sì, ha avuto un andamento abbastanza volatile, esatto, perdeva abbastanza, poi ha recuperato. Diciamo che ormai Ponte dei Paschi di Siena è sicuramente un titolo su cui ci sono attese di ogni tipo. L'assemblea, diciamo, dovrà anche far capire, oltre all'aumento di capitale, quali è il possibile sbocco di questa banca a livello di aggregazioni, anche se in questo momento spesso le banche che vendono più indiziate di poter essere aggreganti nei confronti di MPS sono considerate anche le banche quasi da cui scappare, perché è sicuramente un boccone molto difficile da digerire. È uscito proprio in questi giorni un editoriale su Breaking News abbastanza interessante da Londra, che mette in evidenza come MPS abbia tra le banche italiane, diciamo, un rapporto crediti deteriorati sicuramente più elevati, e poi ha quell'esposizione molto elevata nei confronti di Nomura per la famosa ristrutturazione di quel derivato Alexandria, e questo significa che oltre all'aumento di capitale ulteriore che dovrà fare di 3 miliardi di euro MPS, questi soldi non basteranno, ma occorrerà poi trovare altro capitale, si parla di possibili operazioni attraverso obbligazioni subordinate. Ciò significa che a livello BCE si sta cercando di spingere affinché in realtà Monte dei Paschi venga, trovi uno sposo più capace di sopportarla. Allora, non è l'unica. Exor, che pubblica i dati, l'utile volte 300 milioni, sale il dividendo, si avvantaggia la borsa più 0,35%. Saipem continua il risico nel mondo petrolifero, più 3% oggi, dopo che la società di investimento americana Dodge & Cox è salita ancora nel capitale di Saipem all'11,9%, ha comprato un altro 1,5%. Migliori e peggiori della giornata, beh, ovviamente Alcatel-Lucent più 15,60%, di cui parleremo tra un attimo, o meglio dopo il GR24, Giorgio Fedon più 14,20%, Mondo TV più 6,70%. Fronte opposto invece Anima Holding meno 7%, Mittel meno 5,30%, IKF meno 4,30%, Vita società editoriale meno 4,80%. Grazie a Salvatore Gazziano. C'è adesso il GR24, poi parliamo della conferma delle trattative in corso per fondere e creare un colosso mondiale tra Alcatel-Lucent e Nokia. Da quello che si è capito dovrebbero essere i finlandesi a comprare i francesi americani. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, per quello che riguarda la notizia ancora di borsa, dicevamo che il miglior titolo oggi in assoluto è Alcatel-Lucent, qui più 15,60%, che appunto si tratta anche a Milano. Perché? Perché è arrivata notizia che le trattative, la conferma anzi, che sono in corso trattative tra la finlandese Nokia e la franco-americana Alcatel-Lucent per una possibile aggregazione. Adesso parleremo dello scenario più probabile. Faccio notare che Nokia a questo punto, lo dico anche a chi ci scrive, non ha più i telefonini cellulari perché li ha venduti a Microsoft per 5 miliardi e 4 nel 2013. Nokia si concentra adesso nella produzione di infrastrutture wireless, in cui sono terzi a livello mondiale dopo i cinesi di Huawei e la svedese Ericsson. Il gruppo finlandese capitalizza 29 miliardi e ne fattura quasi 12,7 con 60.000 dipendenti. Alcatel-Lucent invece è nata dalla fusione tra la francese Alcatel e l'americana Lucent Technologies, nel 2006 ancora. Produce hardware e software per le telecomunicazioni, è in una fase difficile di ristrutturazione, registra un calo delle vendite sia in Europa che negli Stati Uniti, capitalizza circa 12 miliardi di euro, ne ha fatturati 13,2 l'anno scorso, 52.600 persone, di cui il 34% in Europa. Allora, Enrico Pagliarini, la nostra voce quando si parla di tecnologie, 2024 è il programma. Buonasera Enrico. Buonasera a voi, buonasera a tutti. I dettagli di questa operazione e soprattutto l'obiettivo. Allora, l'obiettivo è creare il secondo polo delle infrastrutture senza fili, quindi wireless, del mondo dopo la cinese Huawei. Come hai ricordato tu, Huawei è il produttore numero uno secondo Ericsson. Questa aggregazione che molti danno per quasi fatta, poi vedremo soprattutto il governo francese che ha un ruolo importante, questa aggregazione potrebbe dar forma, creare il secondo polo del mondo. Allora, partiamo da una considerazione che tutti i nostri ascoltatori vivono: i prezzi delle telecomunicazioni sono in calo da anni. Tutto questo crea una tensione molto forte sui mercati. Gli operatori di telecomunicazioni chiedono prezzi sempre più bassi a chi produce le infrastrutture, quindi le antenne che poi ci offrono il servizio di telefonia mobile, e tutto questo crea la necessità della aggregazione di questi poli. E poi c'è effettivamente anche la forte pressione cinese, perché oltre a Huawei, che è il più grosso produttore, non dimentichiamoci di ZTE, che è un altro produttore cinese che sta crescendo molto, perché se uno è forte in Cina crea delle dimensioni molto grandi, quindi può conquistare il mondo. E poi è ancora piccolo, ma sta crescendo anche il business di Samsung, che offre infrastrutture di rete. Quindi tutto questo crea le condizioni per una nuova aggregazione, per creare nuove economie di scala, prezzi più competitivi e cercare di competere nel mondo. Questa è un'aggregazione interessante perché queste due società, quindi Nokia e Alcatel Lucent, sono di fatto complementari in alcune aree del mondo, soprattutto negli Stati Uniti, dove Alcatel-Lucent è piuttosto forte, Nokia un po' meno, e dove Huawei non è presente per motivi sostanzialmente di sicurezza nazionale. Huawei è stata tagliata fuori dal mercato americano per decisione del governo. Vedremo come andrà a svilupparsi questa trattativa. Tu già facevi notare, Enrico, che il governo francese ha un ruolo importante. Non a caso Parigi ha detto che sarà molto vigile sulla protezione dei posti di lavoro e degli stabilimenti industriali dopo l'annuncio di dopo appunto l'annuncio dell'offerta di acquisto. Sarà probabilmente un'OPA. Questa è una fonte che arriva dal Ministero francese all'economia. Domani i dirigenti dei due gruppi incontreranno Hollande, ma tutte le agenzie battono insomma la notizia come dato di fatto. Si va verso la creazione, tu ricordavi, nel settore del secondo soggetto a livello mondiale. Devo dare due notizie che non c'entrano nulla con questo, ma sono appena arrivate le agenzie. La prima sulla Grecia, ne parlavamo poco fa. È in corso un vertice economico ad Atene tra il premier Tsipras e oltre che il vice premier anche col ministro delle finanze Varoufakis. E invece, per quello che riguarda Exor, è arrivata notizia che Exor, parlavamo prima del bilancio, dell'utile e del dividendo, che la holding del gruppo Agnelli, che controlla poi la Fiat, ha offerto 6,4 miliardi di dollari per rilevare la società americana di riassicurazione Partner Re. Grazie Enrico Pagliarini, e adesso noi invece andiamo sull'ultimo tema, sfruttando l'inaugurazione del Salone del Mobile di Milano di oggi, dove parleremo dei modelli di impresa e di quanto è emerso anche dall'indice realizzato da Accenture assieme a Oxford Economics. Come già ricordavamo, oggi il Premier Renzi ha inaugurato il Salone del Mobile, ha detto che l'Italia è in condizione di essere uno dei paesi che cresce più degli altri. Salveremo l'Italia anche per chi si lamenta, pronti a confermare il bonus mobili nella legge di stabilità, così sempre del Premier Renzi, e poi ha aggiunto con un'espressione poco economica, insomma, attenzione, il mobile italiano non è una cosa da fighetti, ma è un simbolo dell'Italia stessa. Vorrei dirvi che noi del governo pensiamo che il Salone del Mobile sia uno straordinario simbolo di come dovrebbe essere sempre l'Italia. C'è una parte, fatemi parlare libero che tanto è meglio, c'è una parte dell'opinione pubblica che pensa che il Salone del Mobile sia, posso dirlo, non parlate mica, roba da fighetti. Pensa che si sente, ah belli, gli eventi, ma guarda che carini. Qui non stiamo parlando di una roba da fighetti semplicemente, qui stiamo parlando di un pezzo dell'economia italiana di oggi e questo è quanto di più importante ci sia, di un pezzo dell'economia italiana di domani. Allora, questa è la dichiarazione del Presidente del Consiglio. Dopo il traffico ragioneremo appunto con chi ha curato il rapporto Accenture, dei, al di là di cosa sia da fighetti o no, questo è un problema che non abbiamo, ma di quello che sta capitando al nostro modello di impresa. E quindi l'Italia è in condizione di crescere più degli altri paesi e appunto il Salone del Mobile non è una cosa da fighetti, ha detto il Premier Renzi usando un linguaggio diciamo più giovanile che istituzionale. Stiamo parlando di un simbolo dell'Italia, di un pezzo dell'economia con dati straordinari. Questo ci porta, come già dicevo, a ragionare in generale su quello che è il mutamento in corso dell'Italia produttiva e dei vari settori produttivi. Noi spesso ci occupiamo di singoli settori, anzi direi ogni settimana, di singoli settori con dei tratti comuni che ormai conosciamo a memoria: buona se non ottima risposta sull'export, debole e debolissimo andamento dei consumi interni. L'export non sempre, diciamo quasi mai, tranne pochi settori, riesce a sostituire completamente l'assenza o la debolezza dei consumi interni. Necessità di essere in filiera, di superare il distretto classico per una concezione nuova, diciamo 2.0, 3.0, chiamatela come volete, del distretto, quindi dove è importante la dimensione non fine a se stessa ma nel posizionamento che tu hai nella filiera da monte a valle. Di questo parliamo oggi anche con chi è il responsabile per Accenture Strategy. Mi riferisco al dottor Marco Morchio. Buonasera innanzitutto. Buonasera a lei. Accenture, per chi non lo sapesse, lo ricordo, è un colosso mondiale di consulenza direzionale, come si chiama, quindi servizi tecnologici ma anche outsourcing. Sono 323.000 professionisti in oltre 120 paesi, fa consulenza aziendale a 360 gradi, se vogliamo essere un po' semplicistici ma farci capire. Tra l'altro ha ricavi netti nel 2014 per l'anno fiscale che andava dal settembre 2013 all'agosto 2014 pari a 30 miliardi di dollari. Poi arriveremo anche all'indice che avete diffuso, era presente anche oggi su Sole 24 Ore, il Digital Density Index. Però prima di tutto, dottor Morchio, un commento sul processo in atto di trasformazione del nostro modello produttivo. Dunque, di sicuro è in atto una trasformazione, questo è un ottimo punto di partenza. Concordo in generale sul fatto che l'Italia oggi sia di fronte ad un bivio importante, quindi ha da un lato un'opportunità di crescere, forse di crescere anche più di altri paesi. Senza dubbio siamo di fronte a un bivio, perché abbiamo anche l'opportunità di invece vedere ampliare il gap che ci divide dal resto degli altri paesi, che poi vedremo anche commentando il Digital Density Index, ci vede molto indietro su alcuni aspetti infrastrutturali. Io credo che le aziende d'Italia si rendano conto di questo e che siano di fronte a questo bivio e cerchino di cogliere questa opportunità al meglio. Sanno che devono ripensare. Prego. No, no, prego. Ma quando lei dice elementi infrastrutturali, visto che di infrastrutture parliamo, ahimè, in questi giorni per vicende che riguardano l'ANAS in Sicilia, ma non solo, che cosa intende per infrastrutturale? Perché c'è una competenza chiaramente dello Stato, del sistema paese, diciamo così, sulle infrastrutture messe a disposizione, che sono quelle di carattere fisico, ma anche le infrastrutture digitali, per cui il famoso progetto banda larga e digitalizzazione del paese. Poi però lei mi sembrava si riferisse più a un'infrastrutturazione propria dell'azienda. Sono entrambe le cose, sono tutti questi aspetti, giusto per dare questa qualche anticipazione, infatti questo indicatore che lei citava ha cercato di misurare un po' tutti questi aspetti, quindi il sistema paese nel suo complesso. L'idea è che l'Italia continua ad avere, peraltro ancora oggi, ha delle eccellenze, dei singoli player che sia nel mondo delle grandi imprese sia anche nel mondo delle start-up ottengono grandi successi, ma riesce poco a fare il sistema, sia tra le aziende, quindi anche come contributo dei privati, sia tra pubblico e privato. Quindi nelle infrastrutture c'è anche il tema della logistica e dei trasporti, ma c'è anche il tema dell'infrastruttura della banda larga, così come c'è anche, diciamo, il diaframma dell'open innovation che mette in collegamento le grandi aziende con il mondo dell'innovazione e delle start-up, così come c'è tutto l'apparato regolatorio e, diciamo così, la facilità di fare business in Italia per gli aspetti legati più a diritto all'apparato regolatorio. E quindi lì entriamo nel tema della burocrazia, norme, certezza del diritto intesa come tempi soprattutto del diritto, in particolare quello civile, e poi pressione fiscale. Comunque, restando in questo caso sulle imprese, e adesso arriviamo anche al Digital Density Index, qual è l'elemento di maggior debolezza intesa come magari ritardo o non consapevolezza che voi osservate nelle aziende italiane rispetto alle concorrenti straniere? Dunque, diciamo, il ritardo prevalente legato soprattutto al mondo diciamo dell'innovazione, al di là del ritardo che citavo prima, cioè quello di collaborare e fare sistema, quindi diciamo noi abbiamo parlato di, lei ha parlato di estensione dei distretti, di fare filiera, questo è uno dei limiti principali del nostro paese, quindi le aziende nascono come eccellenze ma fanno poco sistema e quindi hanno poco successo da questo punto di vista. L'altra componente è l'utilizzo dell'innovazione e in qualche modo anche della tecnologia per crescere e quindi per far aumentare i ricavi, non solamente per ridurre i costi e quindi fare efficienza interna. Questo è uno degli elementi, peraltro che emerge anche da alcune nostre ricerche, oltre che da questa specifica anche sul digitale, anche da altre, in cui le aziende italiane colgono un po' la necessità di farlo, ma fanno fatica a realizzarlo. Un po' per le componenti infrastrutturali, un po' anche per altri motivi, tra cui in alcuni casi la scarsità degli skill necessari e dei profili necessari sul mercato italiano, oltre che insomma. Cioè lei dice le professionalità come mondo del lavoro? Esatto, le professionalità come mondo del lavoro sono in alcuni casi un limite anche sul mercato italiano. Quindi, se ho ben capito, sono aziende che digitalizzano o investono anche in, ma più perché devono o sentono che devono che non perché ci credono? Diciamo che ne vedono l'opportunità, il bivio che io raffiguravo all'inizio, insomma, sul mercato, il bivio che raffiguro sul mercato italiano, quindi la finestra di opportunità che abbiamo di fronte come sistema paese, ce l'hanno di fronte anche le aziende. Oggi devono riuscire a innovare, a cambiare un modello che le ha viste in qualche modo sopravvivere fino ad oggi, resistendo alla crisi che ci trasciniamo insomma, ormai da qualche anno, si rendono conto che non tutte ce la faranno, che devono cambiare e innovare, non solamente dal punto di vista tecnologico, ma anche del modello di business. e devono in estrema sintesi cambiare la loro strategia, non solamente riducendo i costi, ma ripensando un modello di crescita e quindi di gestione dei ricavi, di generazione dei ricavi diverso, per garantirsi un posizionamento. Allora, veniamo al vostro indice. Sono 17 le economie analizzate, tra l'altro lo studio è stato realizzato da Oxford Economics e appunto da voi, quindi avete usato anche Oxford come partner. E le quattro componenti, allora le dico, a me non piacciono gli inglesismi, making markets, quanto il digitale crea mercati nuovi, running enterprises, come le imprese stanno adottando le tecnologie digitali per operare, sourcing inputs, come il digitale sta impattando sull'utilizzo del lavoro dei capitali, e fostering enablers, quando la digitalizzazione è favorita dal contesto istituzionale e socio-economico. Detta così è un po' troppo inglese, è un po' troppo alta, diciamo astratta. Andiamo sul concreto. Voi avete notato che, per esempio, chi usa correttamente tutte le opportunità delle tecnologie, quindi del digitale, ha benefici diretti sulla produttività. 10 punti in più potrebbero valere nell'economia avanzata un aumento del PIL di 0,25 dello 0,25 all'anno, il che vuol dire che in Italia da qua al 2020 sarebbero 41 miliardi di dollari. Noi siamo però ultimi tra i paesi europei nell'indice che avete sviluppato e penultimi tra gli stati analizzati, siamo solo davanti all'India. Il nostro indice finale è 33,1, faccio presente che l'Olanda è a 75, la Svezia, che è la seconda, a 60, la Finlandia a 57, poi guardiamo paesi anche noi più vicini, la Spagna comunque a 47, la Francia a 37, la Germania a 52, l'Austria a 55, per cui anche guardando Spagna, Francia, Austria, insomma il Belgio è a 45, ci sono 12 punti di scarto. Voi evidenziate tutto un insieme di elementi sulle imprese, lente a muoversi verso il business online, pigre nell'adottare nuove tecnologie, i consumatori che sono connessi peggio che nel resto d'Europa e un paese che catalizza pochi progressi. Possiamo andare ancora più nello specifico? In prima battuta, se mi consente, giusto una precisazione per mitigare i toni negativi del risultato, che purtroppo sono veri, nel senso, nei fatti la sintesi è questa. Il lato positivo è che da un lato è una sintesi che deriva da picchi e flessi nelle performance, certo, è una media, diciamo. Quindi la media, ahimè, ci vede posizionati in penultimi, ma nella realtà abbiamo alcune eccellenze che depongono a favore del potenziale dell'Italia. E dall'altra parte c'è diciamo il gap che, come dicevo, può essere visto come un'opportunità. Il recuperare la media europea, che è nell'intorno del 50 del valore dell'indice, ci consentirebbe di avere un incremento, secondo diciamo l'incremento di produttività e di GDP, di circa 80 miliardi. Quindi di fronte a noi, come dicevo, abbiamo questo bivio che può valere 80 miliardi in più di PIL se saremo in grado di andare a migliorare gli ambiti sui quali abbiamo basse performance, il che è una buona cosa, perché potremmo recuperare molto in termini di generazione di ricchezza e di produttività e competitività del nostro paese. Allora, grazie anche a dottor Morchio, Marco Morchio, responsabile Accenture per le strategie, per la strategy. Mi è arrivata un'ultima agenzia, ve la leggo praticamente in diretta. Allora, i ministri dell'Eurogruppo non daranno l'ok ai pagamenti alla Grecia il prossimo 24 aprile a Riga, lo scrive il giornale tedesco Handelsblatt, secondo una anticipazione, quindi la situazione si aggrava, nel senso che se così fosse confermato, i rischi di un default tecnico o non tecnico della Grecia ci sono tutti. Non a caso è ancora in corso l'incontro tra Varoufakis e Tsipras. Grazie al dottor Morchio. Molti messaggi anche adesso riguardano il crollo del viadotto sulla Palermo-Catania. Guardate, insomma, noi di Ciucci ci siamo occupati dell'ANAS in tempi non sospetti. Torneremo su questo anche domani. Ha ragione chi dice che rischia di mettere in ginocchio a ridosso dell'inizio della stagione turistica tutto il settore del turismo, per quello che riguarda Enna, Caltanissetta, le Madonie e l'intera economia siciliana. Vi torneremo anche domani. Intanto, comunque, l'augurio di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.